Eccoci al primo appuntamento di Dega from Lesbo Island. Siamo in collegamento dall'isola di Lesbo in Grecia con Pietro. Ciao Pietro, buonasera. Ciao Giacomo, è un piacere essere qua. Allora, per spiegare un po' a chi ci ascolta qual è il format che abbiamo pensato per questo podcast, fondamentalmente farci raccontare un po' da Pietro che si trova sull'isola di Lesbo, quello che succede lì, la sua quotidianità e poi un aspetto un po' più generale dell'aiuto e del mondo dei migranti, e il tutto accompagnato da una selezione musicale molto particolare, giusto? Sì, ho cercato, in realtà l'ho fatta 3 minuti prima di collegarmi con voi, giusto perché la professionalità prima di tutto, però sì, ho cercato di mettere insieme un po' tutte le influenze, le atmosfere che girano un po' sull'isola, passando da canzoni strettamente greche che raccontano la tradizione dell'isola, ma sempre particolari, con invece canzoni e tracce che provengono da i paesi da cui la maggior parte delle persone che arrivano qua ascoltano e sanno. Poi naturalmente, per chi non lo sapesse, sono anche mezzo musicofilo, però in segreto, quindi sono alcune cose, alcune chicche. Ok, io farei un punto a monte di tutto ciò, quindi cosa succede sull'isola di Lesbo e perché sei lì, ecco, per essere molto generici. Allora, l'isola di Lesbo, possiamo partire dal fatto che è la terza isola più grande della Grecia. E fin da sempre, negli anni, parla addirittura di secoli fa, è stata teatro di tanti scenari migratori, possiamo parlarne di dire così. Bisogna innanzitutto pensare che fino a 100 anni fa l'isola di Lesbo era un territorio turco e Izmir, quindi a 20 km dall'isola di Lesbo, invece era territorio greco. Poi 100 anni fa c'è stata questa grande trasformazione in cui le popolazioni di Izmir della costa turca si sono spostate sull'isola di Lesbo e i turchi che abitavano sull'isola di Lesbo si sono poi spostati invece in Turchia. E possiamo anche dire che nell'Ottocento per 60 anni è stata addirittura una colonia genovese nell'Ottocento, nel 500, quindi è sempre stata attraversata da personaggi diversi, culture diverse, ed è un po' il simbolo ultimamente, soprattutto negli ultimi 5 anni, delle speranze di chi cerca di mettere tutto in una valigia e scappare dalla povertà, miseria, guerra, persecuzioni, per trovare asilo in un'Europa che adesso mica tanto, ma prima magari era un po' più accogliente, quando non c'erano stati confini troppo così rigidi. Ok, quindi un'isola che è sempre stata un punto di attraversamento e che oggi lo è più che mai, nel senso, dacci un po' di numeri sulla situazione che c'è lì al momento. La crisi, se vogliamo usare questo termine, è iniziata più o meno nel 2015. La maggior parte delle persone che arrivava qua era gente che scappava dalla Siria principalmente, e quindi da scenari di guerra, ma possiamo anche semplicemente dire che chiunque abbia un sogno, che è quello di andarsene dal proprio paese, che a cui stanno seriamente sulle palle governo, parenti, amici, vicini o chi ne voglia di più. Il modo più semplice per arrivare in Europa era appunto arrivare per l'isola di Lesbo, a 10 km nel punto più vicino dalla costa turca, e quindi tutti i paesi del Medio Oriente soprattutto tipo Afghanistan, Iran, così passavano per la Turchia e arrivavano a Lesbo un po' più facilmente, diciamo, che per le altre rotte mediterranee. La crisi appunto è incominciata nel 2015, sono sbarcati migliaia e migliaia di persone, adesso i conti purtroppo non sono così ferro, però ancora adesso, soprattutto negli ultimi anni, si è stata incrementata dal fatto che era il simbolo dell'arrivo in Europa per molta gente che scappava. E, adesso, tuttora, anche se ci sono restrizioni per il Covid, i confini sono chiusi, le politiche europee cercano di trattenere tutto ciò. Nonostante ciò, l'altro ieri sono arrivate altre 80 persone sull'isola dalla Turchia. Insomma, un crocevia, una prima porta per chiunque fugga da qualsiasi situazione di difficoltà. E quindi si è creata su quest'isola sicuramente una situazione dalle mille sfaccettature che andremo in questo programma a vedere sempre più nel dettaglio. Inizierei subito però anche con la parte musicale che ci propone Pietro, Rebetiko. Dici qualcosa su questa traccia che adesso andrà ad Allora, iniziarci. il Rebetiko è musica tradizionale greca dell'isola. L'isola di Lesbo in tutta la Grecia è famosa per questo stile musicale, che è musica leggera, musica folcloristica, ma che si trova spesso in qualsiasi locale qui, che è musica dal vivo e rappresenta un po' quello che volevo un po' introdurre, no? Come l'isola. Si parte dalle tradizioni, si parte da comunque una cultura che è sempre stata colpita dai fenomeni migratori. Questa musica ha un sacco di influenze varie, soprattutto mediterranee in generale, ma anche dall'ambiente turco. E quindi volevo proporre questa canzone qui iniziale, che tra l'altro per chi lo può riconoscere a un buon udito, è stata ripresa più volte dai Black Eyed Peas, Quentin Tarantino. Chi ne ha più ne metta. ti sento. Traccione. No, la piacevole sorpresa è che tu potessi sentirci, cosa che la nostra apparecchiatura tecnica sembrava non permettere, e invece sì, ottimo, ottimo. Sì, molto bello sentirla. Vabbè, in questo momento dove ti trovi? Collocaci la tua posizione. L'isola appunto è abbastanza grande, ma come un po' tutti quelli che la frequentano, si abita Mitilene, che è il capoluogo, formato da 40.000 abitanti, che però negli ultimi 4-5 anni è stata anche attraversata da altri migliaia di persone che venivano, andavano e venivano per lavorare per le varie NGO, le organizzazioni non governative, e che comunque erano a contatto con la crisi migratoria. Quindi è una specie Hai bisogno di certezze per la tua salute orale? Elmex si affianca ai professionisti del settore del... E quindi, nonostante io abbia problemi adesso un po' tecnici ascoltando le pubblicità su YouTube, volevo iniziare un po' a parlare di quello che invece è la parte un po' più drammatica dell'isola, no? Abbiamo detto che è un'isola attraversata da un sacco di culture diverse, è sempre stata abituata a essere un centro di arrivo per tante persone, però ne stiamo parlando forse ancora fin troppo in modo neutro. E, per quanto non volessi farlo, e tanta gente magari in realtà vorrebbe che io parlassi della parte un po' più triste, negativa, mi sono un po' costretto, no, a raccontare la parte marcia di tutto ciò. La gente arriva qua con la speranza, lo sappiamo tutti, mette tutto quello che ha in una valigia di cartone, come hanno fatto magari alcuni nostri bisnonni o qualsiasi altra persona che cerca una vita migliore. Il fatto è che il grande campo di profughi che si era stato creato qualche anno fa, quando la crisi era partita, per chi non lo conoscesse era il campo profughi di Moria, quando era stato creato in modo provvisorio, doveva essere una cosa temporanea, la gente doveva essere un po' come tutti i campi profughi, no? Cioè, l'idea iniziale è quella, provvisoriamente la situazione è questa, poi passano gli anni e diventano in realtà delle città permanenti in qualche modo, se così si può definirle. Sì, parlavo giusto oggi con un mio amico che veniva dall'Iran, e mi diceva che il maggior pensiero che hanno quando pensano di arrivare in Europa è: cazzo, qua siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo, non devo aver paura di uscire di casa e lasciarci le penne, posso andare a ubriacarmi da un amico senza avere la paura che la polizia mi becca, mi veda ubriaco e mi mette in prigione, posso uscire di casa con la mia ragazza senza che appunto non venga fermata dalla strada la polizia chiedendomi se sono sposato. Loro sognano solamente un po' più di libertà, e nel momento in cui arrivano qua paradossalmente è l'ultima cosa che hanno, vengono messi in una tenda che spesso è una tenda adibita per l'estate, quindi durante l'inverno soffrono il freddo e la mancanza di elettricità, di accesso all'energia, soprattutto per quest'anno col Covid e quant'altro. Una volta che il Covid è apparso, hanno deciso di chiudere il campo definitivamente, senza dare la possibilità alla gente di andare, entrare e uscire, se non per motivi prettamente medici. Tutto ciò riguarda il vecchio campo di Moria. Che è stato chiuso adesso. È stato chiuso una parolona, è bruciato, è bruciato. Il campo di Moria Ah, poteva ospitare dopo 4.000 l'incendio che c'è persone. stato, non è mai stato rimesso, quindi pensavo fosse stato rimesso in utilizzo, invece no. No, no, era un campo che permetteva la permanenza di 4.000 anime, quando in realtà fino a questo settembre ce n'erano 15.000 di persone. Personalmente sono stato dentro il campo di Moria parecchie volte prima che bruciasse completamente, ed era veramente una cosa che... ma chi fa questo lavoro come me magari un po' di curiosità ce l'ha nel vederlo, però... Torni a casa un po' con il magone, con il fatto che, guarda, anche mi dispiace essere entrato, perché mi sembra di essere un turista che entra e guarda chi vive nell'inferno. Ma anche questa parola inferno, che viene usata molto spesso per riguardo a Moria, è un po' una parola infelice, perché per tanta gente quell'inferno era casa. Si erano comunque, il fatto di vivere tutti ammassati, uno sopra l'altro, con code infinite per il cibo, i bagni, le docce. È diventata casa e si era creata una certa di comunità interna in cui sì, siamo tutti qua, siamo tutti uno ammassato all'altro, ma siamo sempre tutti sulla stessa barca. Quindi. Ah, quindi c'è un po' questo aspetto di appunto condivisione della situazione e di una comunità che viene a crearsi, che in realtà non mi aspettavo da una chiacchierata che avevamo avuto qualche tempo fa, in cui comunque nella mia testa, dopo dei tuoi racconti, mi vedevo quasi una guerra interna, quindi sì, siamo tutti in questo posto e viviamo in questo modo e abbiamo le stesse difficoltà. Però proprio per questo motivo siamo un po' tutti contro tutti. E invece c'è in parte, mi dici, una minima di condivisione della situazione a livello interpersonale tra chi abita il campo? La situazione è come la realtà, come tutta la realtà in generale, è abbastanza complicata. Si ha questo sentimento di siamo tutti sulla stessa barca, ma allo stesso tempo a Moria c'era un grosso problema di sicurezza. C'erano più o meno 25-30 accoltellamenti al giorno. E spesso si scontrano un sacco le comunità al suo interno, parlo di arabi e afghani principalmente. Ma non dimentichiamoci che è anche forte la presenza della comunità africana. E a Moria c'era quel sentimento di collettività che veniva condiviso e che in qualche modo faceva nascere anche determinati tipi di solidarietà spontanea, che è estremamente, a mio avviso, quasi alcune volte innaturale nell'uomo, ma allo stesso tempo. La gente si accoltellava, si litigava, c'era chi Certo. lottava per un paio di scarpe, chi lottava per la frutta, qualsiasi cosa, comunque in un momento in cui cerchi di sopravvivere, magari una famiglia alle tue spalle è essenziale. E quindi il fatto che l'altra famiglia ne ha due e tu ne hai uno solo, questa cosa non ti va bene. Quindi la situazione è sì, particolarmente complicata dal punto di vista della convivenza, ma allo stesso tempo c'erano questi piccoli frangenti di solidarietà spontanea, viviamo tutti nello stesso posto, che rendeva le cose alcune volte particolarmente sorprendenti, allo stesso tempo sempre più con la tensione sempre un po' alle stelle. Adesso la situazione è un po' cambiata. A settembre il campo di Moria è bruciato completamente. Dopo che per 6 mesi è stato chiuso per misure Covid dal governo greco, gli stessi profughi hanno dato fuoco al campo. E, al di là dei giudizi che uno può dare, l'Europa arriva con un campo e tu cosa dai? Dai fuoco all'unica casa che hai. La gente sta di merda, sta di merda tuttora, e l'unico segnale che avrebbe potuto dare alla comunità internazionale era proprio un segnale forte. Poi da lì a pensare i motivi, il perché, il bruciare tutto il campo, se era giusto o sbagliato, non Beh, spetta a anche noi perché poi deciderlo. immagino sia stata una decisione comunque collettiva fino a un certo punto. Non pensavo che ci sia stato un punto della situazione democratico. Ok, decidiamo, ok, bruciamo il campo, ma probabilmente anche qualcuno ha preso questa iniziativa. E quindi penso che qualsiasi giudizio generico, in questo caso, lasci il tempo che trovi, al di là del solito, ma in questo caso ancora di più. Nel senso, non è che i 15.000 abitanti del campo hanno deciso, ok, facciamo questo, ma penso che la dinamica No, comunque però sia. hai ragione. C'è una cosa da notare. Quando il campo è bruciato, un campo in cui ci sono 15.000 persone che brucia, ti aspetteresti di vedere gente bruciature, qualche morto. Questa cosa non è avvenuta. Tra noi che lavoriamo in questo campo, si dice, ma è quasi al 70% sicuro, anche se il 70% è una probabilità un po' inventata, che sia stata la componente un po' più malavitosa afghana a prendere questa decisione. Ma il fatto che nessuno si sia troppo fatto male quando il campo è esploso, indica che tutti sapevano, e che in qualche modo fosse una decisione sì, presa da una comunità. Però già comunicate, diciamo Allo così. stesso comunicata, esatto. Non ci sono state vittime, se non un paio, e non ci sono stati grossi problemi di ustioni o cose del genere. La gente in qualche modo sapeva già. E che fosse una decisione presa da lì a qualche giorno, non credo che sia questo il caso. Va bene, ne parliamo dopo. La prossima traccia, Nedaye, dici qualcosa di più anche su questo, io sono assolutamente ignorante. Mohammed Reza Shajaran è uno dei più grandi musicisti iraniani viventi, anche se è morto, quindi, però dico viventi perché suo padre a sua volta era un grande musicista iraniano e suo figlio, tuttora in vita, per fortuna, ha preso le redini di questa tradizione musicale di famiglia e sono ancora considerati la famiglia di musicisti più importanti di tutto l'Iran. E penso che siano le note giuste un attimo per far da contesto a quello che è successo a Moria e quello che è in realtà la situazione un po' più generale qui sull'isola. Perché chiunque che trovi dentro l'isola, parlando di profughi, non lo trovi triste, ma lo trovi veramente abbattuto. La quotidianità aiuta a superare un sacco di cose che è il tuo passato, quello, la tua situazione, quant'altro, ma questo sentimento comune di sofferenza e di desolazione è una cosa imprescindibile. E quindi volevo mettere questa traccia proprio perché mi ricorda un po' quel tipo di, chiamiamola angoscia, che anche tra noi che lavoriamo in questo mondo qui, abbiamo, perché noi abbiamo tutto, siamo felici, usciamo la sera, beviamo, facciamo tutto quello che fanno delle persone normali. E chiunque, se tu gli fai la domanda come stai, lui dicono: ma sto bene, io sto bene, però questa situazione di merda del campo, delle persone qua, mette di malumore chiunque. E quindi questo doppio sentimento penso che sia ben rappresentato da questa traccia e dalla storia di questa famiglia di musicisti iraniani che è scappata dall'Iran anni or sono e vive in America, ma è comunque considerata da tutta la comunità iraniana la più grande famiglia di E allora musicisti. sentiamola e vediamo se riusciamo ad entrare almeno in parte in questi sentimenti misti d'angoscia di cui ci racconti. Peccato interromperla a metà, perché ci sono altri 4 minutini di angoscia. Che un bel trippone, un bel trippone. Contrastante, perché angoscia, ma anche, non lo so, molto paesaggio mi sono visto davanti, molto l'uomo con davanti un paesaggio che provoca poi alla fine quel famoso sentimento sì d'angoscia, ma anche in un certo senso di appartenenza. Non sì, lo so, direi la stessa cosa in effetti. Però mi sono immaginato proprio il classico, sia quello che guarda avanti non sa cosa trovare, sia che guarda dietro e dice mi manca, ma allo stesso tempo non posso restare. Però vabbè, forse la sta mettendo troppo sul filosofico, siamo un po' esagerando, boh, ecco, pensavo, quello che le mie impressioni anche un po'. No, no, vabbè, filosofico, però era bello, cioè mi è venuto fuori in realtà senza neanche pensarci, ma questa parola appartenenza, perché alla fine è quello che è in gioco anche in un certo senso quando si parla di confini, quando si parla di ricerca di un posto dove sentirsi a casa e insomma di sicuro è una parola che ha un suo conflitto interiore in chi questa appartenenza fatica più di altri a trovarla. Partirei proprio, prenderei la palla al balzo e parlerei proprio di conflitto adesso, in questo momento, perché al di là di tutta l'angoscia, la sofferenza e vabbè, tutte queste brutte parole che magari non sono proprio scontate qui, però magari non sono il massimo da sentire, da ascoltare. L'altra parte che è estremamente importante, soprattutto viene vissuta molto su quest'isola, è il conflitto. Sono sempre stato europeista io, se devo essere sincero, no? Ho sempre creduto che comunque nel bene e nel male, benché i governi e quant'altro, interessi dei singoli venissero prima rispetto al benessere collettivo, riguardo le scelte che magari una certa politica fa, pensavo che comunque a un certo punto si venisse realizzarsi una certa pragmaticità nel scontrarsi col problema migratorio, no? Ho smesso di crederci, ho smesso di crederci da quando sono qui. Diciamo che tutto questo e tutto quello che quest'isola sta vivendo, o che comunque qualsiasi persona che cerca una via d'uscita per scappare spera di trovare, viene ostacolato da una certa politica che, detto francamente, fa incazzare molto e delude. E delude. Possiamo stare qui a parlare di quanto sia male e malvagio il governo dell'Iran, il Khomeini, la Sharia e tutto quel genere di tipo di repubbliche islamiche fondamentaliste che non lasciano spazio alla libertà della donna, dell'individuo e così via. Possiamo parlare delle autobombe, dei talebani in Afghanistan, possiamo parlare dei governi corrotti africani, ma alla fine possiamo parlarne tanto male, ma se l'Europa alla fine non decide di fare niente, alla fine c'è anche da guardarsi intorno, eh. Quindi il malvagio, il male, lo schifo, spesso fa incazzare, soprattutto quando chi pensa di essere migliore, in questo caso magari l'Unione Europea, non agisce, non cerca risoluzioni. Tergiversa e alcune volte fa scelte che sono controproducenti per essa stessa, ma anche per chi sinceramente chiede un aiuto. Sappiamo tutti che il problema dell'Europa non è l'Europa stessa, ma sono i singoli stati membri che vogliono fare, seguono i propri interessi. Ma negli ultimi anni sono stato parecchio deluso e abbastanza incazzato da come la stessa Europa cercava di direzionare il problema migratorio e spesso paventando scuse e giustificazioni che non rendevano proprio onore alla realtà. La politica europea adesso è ancora orientata verso un certo tipo di ok, non possiamo accogliere tutti, ma allo stesso tempo non vogliamo accoglierli. Fino a qualche anno fa si davano dei soldi alla Turchia per non far passare la gente, il vecchio trattato di Dublino è sempre un po' una mezza schifezza, e nonostante la von der Leyen voglia cambiarlo, quello che vuole cambiare non è assolutamente abbastanza, e per molti qua, soprattutto quelli che lavorano in ambito legale, con cui parlo e che lavorano per organizzazioni umanitarie che aiutano la gente nei loro problemi legali. Dicono che anche questo cambio della von der Leyen non è una virgola, è neanche in più, anzi è una virgola in meno. Però chi siamo noi per giudicare? Chi siamo noi per giudicare? No, e quindi mi parli di una mancanza tua di fiducia nell'istituzione, nell'Europa, rispetto al problema in questo momento? Sì, proprio questo. Quando Moria è bruciata, nessuno avrebbe voluto un'altra Moria. Nessuno cercava questo e le parole del commissario per la migrazione dell'Europa erano state proprio queste. Non vogliamo una Moria 2.0. Il nuovo campo, che è stato creato più o meno a metà settembre, dopo che per 15 giorni la gente che era sfollata dal campo di Moria non sapeva dove andare ed era chiusa e stretta in una strada singola lunga 2 km, quindi per questi 2 km di strada c'erano 15.000 persone che dormivano a cielo aperto. Si è deciso di creare un nuovo campo, no? Chiamiamolo provvisorio, chiamiamolo campo aperto, chiamiamolo non un Moria 2.0. A distanza di mesi nulla è cambiato. C'è una cosa da dire che in realtà non vorrei dire perché magari sminuisce un po' tutto quello che ho parlato fino adesso, soprattutto riguardo la sicurezza nelle comunità dentro il campo. Il fatto che non ci siano più accoltellamenti come Moria è un fatto molto indicativo. Da un lato è positivo naturalmente, perché la gente non si ammazza e non si accoltella e non litiga perché si è troppo ammassati, ma dall'altro indica che siamo un po' tutti omologati. Il nuovo campo è più grande, tutto preciso, organizzato strategicamente in modo tale che tutte le tende siano di 6-7 persone, in cui si vivono insieme uno di fianco all'altro, ma non uno ammassato all'altro. Questa è la differenza, qui è semplicemente un dettaglio, Vabbè, però questo che da fin qui è dire. positivo, no? Cioè, a È livello di positivo, fin qui è accoltellamenti, anche una positivo. distribuzione più sana dello spazio. Fin qui Però. sembrerebbe tutto positivo, ma perché naturalmente c'è un ma, perché non può esserci niente di troppo positivo in tutto ciò. Il nuovo campo non sorge più sulle colline nel villaggio di Moria, in cui per anni ci sono state tensioni, soprattutto con i locali, non ci sono state, e ci sono state spesso delle rappresaglie dagli stessi locals, spesso spinti, anzi per tre quarti delle volte spinti da Alba Dorata, un'organizzazione, un partito ormai dichiarato dallo scorso novembre, organizzazione criminale. Il nuovo campo adesso sorge sul mare, quindi immaginatevi un terreno completamente fangoso, attaccato al mare, pieno di umidità, in cui l'inverno è molto peggio perché con tutto il vento che c'è in quest'isola, per esempio durante la stagione invernale e le piogge, rende tutto ciò ancora più degradante e invivibile rispetto a Moria. Sì, non ci sono accoltellamenti, la gente però vive nel fango. Quando l'acqua scende copiosamente, spesso ti trovi la tenda completamente allagata. Il freddo è talmente pungente e umido che anche dentro 4 maglioni e 8 coperte lo senti dentro le ossa. La situazione è Certo. migliorata? Assolutamente no. Possiamo parlare di miglioramento dal punto di vista di sicurezza? Certo, naturalmente quando c'è un miglioramento in una piccola parte c'è uno sproposito dall'altra che rende tutto ancora un po' più angoscioso e ti fa incazzare di brutto. Ti fa incazzare di brutto perché tutte le promesse fatte, non niente più Moria 2.0, adesso ripenseremo alla politica migratoria per quanto riguarda la Grecia, cercheremo una nuova organizzazione del nuovo campo, cercheremo di rendere la vita migliore a chi cerca di venire, bla bla bla bla, non è soddisfatta. Che poi C'è un'intervista molto famosa della responsabile dell'UNHCR qua sull'isola. Appena è stato creato un nuovo campo, gli era stato chiesto: sarà un campo aperto o un campo chiuso? Nell'intervista balbetta per 20 secondi e dopo quei 20 secondi di balbettamento dice Texeiro. I don't know, non lo so. Si pensava che il campo fosse di nuovo aperto, come lo era Moria prima del Covid, per un mese è stato completamente chiuso, in cui la gente non poteva neanche uscire. Solo dopo si è permesso alcune uscite scaglionate solo per fare la spesa, andare dal dottore o vedere il proprio avvocato. E tutto ciò 2 ore al giorno. Quindi immaginatevi una vita in un campo al freddo d'inverno, in cui va bene, siamo su un'isola, si aspetterebbe un clima un po' più mite. D'inverno qui il clima non è mite, non è mite affatto. Da milanese sono abbastanza abituato all'umidità, al freddo, al grigio, alla pioggia. Qui era stata piuttosto dura, è stata piuttosto dura. E il fatto che la gente non potesse uscire dal campo per andare in giro, fare quel cazzo che mi pare, rendeva tutto ancora più angosciante e ti fa incazzare di più, perché tutte le promesse fatte, tutte le previsioni di miglioramento sono state deluse fin da subito. Sì, sembra un po' un mettere delle toppe, ok, più sicurezza, ok, un po' più di spazio, però sono delle toppe a quella che è una situazione che comunque non viene risolta e rimane tale, quindi possono cambiare le problematiche, ma come mi dici tu, si trasformano in altre problematiche, quindi il fango, quindi una questione climatica, visto il posizionamento del nuovo campo. E insomma, si è lì a tappare dei problemi minuscoli in realtà rispetto alla problematica generale, ne saltano fuori altri, e però poi il quadro rimane identico fondamentalmente. Identico se non peggiore, identico se non peggiore. Spesso trovo gente che mi dice quanto stavo bene a Moria. Stavo ammassato, ma vivevamo in comunità, era una comunità di gente che comunque per qualche anno, un mese, si trovava a vivere assieme, ammassato, e quindi in qualche modo non dico più felice, perché è una parola più sbagliata, però più, appunto, come ho detto prima, un po' più solidale. Qui si è più separati, ok, ma comunque le tende sono molto vicine l'uno all'altro, ma la situazione è peggiore. Quindi, proprio per questo, dopo aver parlato della tradizione greca, dopo aver portato un po' l'angoscia musicale di Mohammed Reza Shahjahan, la prossima traccia forse è un mix di incazzatura e di denuncia sociale, se vogliamo, di un artista iraniano, sempre iraniano perché gli iraniani spaccano i culi a quanto riguarda la musica. E qui ci volevo mettere un pochettino un po' di mio, perché sono sempre cresciuto un po' con l'ambiente un po' rap, hip hop, e questo artista è un artista iraniano in questa traccia in cui proprio spara a zero sul proprio governo, parlando proprio di promesse non mantenute. A me sembrava giusto rendergli onore parlando di incazzatura verso delusioni politiche e di promesse mai mantenute. Quindi Alokoda, dimmi un po' che traccia è questa. Alokoda. Alokoda, sentiamolo. Sì. Dai, perché gli iraniani spaccano di brutto. اگه که من بدم، اگه که خدا زدم، اگه تو میری بهش این باشه سرنوشت. تو خوب و ما بد و زش، اگه حق و رفیقت اینجوری نوشته، من شدم پا به عشقت که فقط واسه رفتم به بهشته. اگه ما بد و مثل شما خواستیم خوب باشیم، نشد بشه، نشد نشد، ما تر و تمیز و گل و محجوب باشیم، نشد بشه. چه انتظاری از یه آدم مکومه که خواست خوب باشه، نشد بشه. زدن سرش و کردن وصله یه ناجور تنش، نشد بشه. ببین این خدا تو رفیق مام بوده، بپرس ازش. حالا که باد جوره بگو همون دیوونه و مجنونه، بگو همون که هر کاری که خودشو آب کشید وایسا جلوت گفت ممنونه، بگو امیدو حلال کنه اون شب خیلی مسبوره، بگو میشناسه، بگو بیای میام پیش واسه نشونیم، هم خواست بگو ته جهنم خونه دل واسه. ببین من خودم ته لاته تو دوزیم امراته، میگن نکن بده ولی وقت فرارم دست واسه. شاید به شک کردم ولی اون کورسوی امید ته دله یه الوات. ببین من خدا خیلی وطلاته، خیلی وطلاته، فکر میکنه خدا خوبه مال آدم خوب هست، ولی ما بلا بیشتر زد و من داره اصلا بخشش واسه همینه. الو الو الو خدا، الو الو الو الو خدا، الو کجای شما، الو ببینم چرا آنتن نمیده زنگ نمیزنی به ما. الو الو الو خدا، منم یه بنده خدا، الو خیلی وقتم پشت خطم اما خطا قصدن. الو الو الو خدا، بگیم الو تلیسی چرا خیلی زنگ زدیم، بگیم کارمون گیره دادی لا کار فرشته. نرو نرو تو رو مولا ما رو گذاشتی با یه سری آفز دیل تو مرفونی، ولی این رفیقای گیره دستن ندارن رمی به ما. نمی کنی قضیه سیب و تموم، فقط یه سیب هرون باقه تابوت، ولی تو اون سیبت کرده ماها رو بعد جوری کبول. نه این رسم رفاقت نبود، من نه ایوبم نه صبور، من یه مسومم یه جوون که کف ایران نل قلاده نبود. مثل من زیاده همه چی تموم، که شده همه چی تموم، واسه شون میگی حالا مرسیه نخونو برو بدون قدر جوونی تو. جوون میگه بعد توی جوی نمو، شهیدا مشی میموندن اگه تو هنو جنگی هم نبود یا فقط شهادت ما قبول نبود. خلاصه که رفیق رفیق بی رفیق، کسی دلش گرفت اما بگو براش. اگه یه گوشه این نشست با بغض گفت ای خدا، اگه دلت شکست اما بگو براش. الو الو الو خدا، الو کجای شما، الو ببینم چرا آنتن نمیره زنگ میزنی به ما. الو الو الو خدا، منم یه بند خدا، الو خیلی وقت پشت خطم اما خطا قطم. الو الو الو خدا، الو خوبی شما، الو خیلی وقت منتظر رمتی پس چرا نمیام. الو الو خدا، الو الو خدا، بابا بردار این لام از سبا برو روی تسفیف. Amid Sefat, Amid Sefat, Halo Koda è il nome della canzone, okay. Mi sono dimenticato. Ok, eh beh sì, bello, sarebbe bello capire, capire le parole, cosa che andrò a vedermi, ma sicuramente si sente la verve incazzosa. Verve incazzosa naturalmente, perché magari ha più da lamentarsi rispetto che noi naturalmente, ma bella incazzosa, perché poi è facile parlare di tutto ciò, fare un podcast radio, parlare di quello che succede, della sofferenza delle persone, ma è comodo farlo nel calduccio della propria intimità, nella propria casa. E proprio per questo... Per questo un po' diciamo il quarto passaggio importante un po' di questo piccolo viaggetto che stiamo facendo io te stasera deve passare per un certo tipo di status quo, no? Una certa accettazione di quello che è la realtà dei fatti. Possiamo parlare di quanto siamo incazzati, di quanto è triste la situazione, ma a un certo punto entra un po', soprattutto quando la situazione diventa prolungata per tanto tempo, no? Inizia a accettare un certo tipo di status quo. La gente qui arriva, ma si ferma per mesi, mesi, mesi, mesi. In questi mesi non è neanche più lacrime in qualche modo, non è neanche più voglia di stare a piangerti addosso tutto il tempo, no? Cerchi di andare avanti, cerchi comunque di trovare la tua vita dentro il campo e in questo schifo di posto, però cosa vuoi fare? Comunque l'essere umano combatte, quindi arrivi a un certo punto che in qualche modo cerchi di tirare avanti, trovi da fare, aiuti le persone dalla tua tenda di fianco, inizi a collaborare con le organizzazioni che lavorano per i profughi e quindi in qualche modo riescono a trovare un certo tipo di normalità dentro magari un inferno e una situazione veramente, veramente sospiacevole. Dobbiamo dire che, allora, magari non l'ho specificato, adesso un buon 75% della gente che vive dentro il campo, nel campo di Lesbo, sono afghani. E sono 75%, è veramente una percentuale molto molto alta. Poi ci sono i siriani, gli iraniani, e subito dopo camerunesi e congolesi, abitanti della Repubblica Democratica del Congo. Quindi è molto varia la situazione, cercando un po' di adattarsi alla situazione per non stare troppo in un angolo a pensare alla propria situazione, come ho detto, la gente cerca di arrangiarsi, cerca di lavorare con altre organizzazioni. La mia organizzazione, che è una casa madre francese, ad esempio, ha un progetto qui a Lesbo che tende a far incontrare queste persone tra di loro e a scambiarsi le loro skills e le loro abilità prevalentemente tecniche per il lavoro del legno, del metallo, del mondo elettronica, biciclette, tutte queste skills, queste tecniche prettamente proprio appunto tecniche. Sono, ecco, infatti, d'arte. Poi che sia oggi o la prossima volta volevo entrare un po' nello specifico dell'attività quotidiana tua lì e della tua NGO. Poi non volevo interromperti, però appunto su quello secondo me ci sta andare a vedere un po' anche nella pratica, perché mi piace che stiamo facendo un po' un quadro generale, ci stai dando un po' un quadro generale della situazione, delle varie dinamiche, anche perché penso che sia un qualcosa in cui non si può che entrare passo a passo e che soprattutto noi più che te da fuori possiamo solo lontanamente percepire e toccare tramite le tue parole, però poi vorrei anche fare un po' di quello, vediamo se anche oggi o nelle prossime volte. Scusami se ti ho interrotto, vai pure. Non ti perderò, non perderò mai più. Quello che volevo semplicemente un po' dire era proprio magari dare anche un attimino, visto che magari è la prima volta, no? Quindi il quadro generale ci sta. Una volta qui c'erano, prima dell'epoca Covid, c'erano 140, giù di lì, organizzazioni umanitarie che lavoravano sull'isola. Poi, tra Covid e non Covid, adesso ne sono rimaste una cinquantina. E come ho detto, la gente prova a collaborare con loro, spesso queste stesse organizzazioni sono fatte in modo tale che la metà, alcune volte qualcosina meno, è formata da volontari che sono stessi profughi. Quindi questa accettazione dello status quo, della situazione di merda, certo, mette in circolo comunque un sacco di multiculturalità, di persone con diverso background professionale, non, ma anche etnico e appunto di provenienza, a lavorare assieme per lo stesso obiettivo, se vogliamo chiamarlo obiettivo, che è quello di raggiungere una certa normalità, una certa quotidianità che ti faccio andare avanti, tirare avanti durante il giorno. C'è questa canzone qua, greca, che è la prossima che volevo mettere, che parla soprattutto di questo, no? Di questo nel bene e nel male, cioè viviamo e moriamo tutti, che poi sembra abbastanza triste, però è più del tipo, sai cosa? Prendo una chitarra, sono abbastanza preso male da pensieri esistenzialisti, ma sai che ti dico, cioè alla fine questa è la vita, no? Cioè, sembra molto banale, ma qui è vissuto in modo abbastanza sottinteso, no? È Non... tanto banale quanto profondo in realtà. Ma è Pio Cali Imonaxia. Traducicelo. Sì, sono questa band, cioè questa band, questo artista greco, ormai 30 anni fa, non penso sia ancora in vita, ma non devo cercare, no? Non ho ben capito. Ed è una traccia che un mio amico greco mi ha fatto sentire proprio perché stavamo parlando di cose esistenzialiste, no? E lui fa, qui questa traccia è perfetta, diceva. Non so, c'è questo ragazzo che canta insieme all'artista, che Faris. sì, sono due generazioni a confronto, perché naturalmente qui non sono tutti giovani, non sono tutti vecchi, c'è un po' un bel import. Fortunatamente dopo Mori 400 minori non accompagnati sono stati subito reindirizzati verso la mainland e poi fortunatamente verso qualche parente, ma non tutti, verso l'Europa. Ecco, Però c'è anche questa cosa anche da questo secondo dire. me. Sì. Sì, forse quello che stavi per dire tu, no? Che comunque questo status quo, questo accettare quello che è sia per chi ha magari 60, 70, 50 anni, ma anche chi ne ha 15, 20, 30. E vedere tutti insieme lavorare per l'obiettivo comune che ripetiamo, non è un obiettivo il fatto di avere una vita normale o decente, però mette forse molto più che magari una società un po' più stabile, una più occidentale, in cui detto fatto il massimo dei problemi degli occidentali è la classica depressione, non ho quello che voglio e bla bla bla bla. La vera differenza è che qua ci devi davvero lavorare chi ha 20 anni e chi ha 50 anni facendo a stretto contatto e vivendo la stessa vita e facendo le stesse cose, cosa che forse noi un po' a livello occidentale stiamo un po' perdendo, no? Sia perché vabbè, siamo un po' più separati a livello generazionale, ma qui è veramente forte il sentimento di comunità, che l'età è solo un numero, no? Perché tanto alla fine alla tenda ci troviamo tutti quanti assieme. Eh sì, è un po', diciamo, luogo comune per cui nelle difficoltà ci si stringe, che poi alla fine è una grande verità. Ma infatti poi ti chiederò anche sui rapporti interpersonali, sia a questo livello intergenerazionale, che è super interessante, perché abbiamo parlato di multiculturalità e appunto qua aggiungiamo anche un fattore anagrafico, quindi età diverse, e poi un altro aspetto ancora secondo me che ci sta a approfondire più avanti è quello del rapporto con chi sull'isola ci è nato, è cresciuto, chi invece ci è arrivato, insomma, tanti rapporti sociali complessi e diversi. E poi sarebbe bello anche raccontarli forse da un punto di vista cose così come aneddoti, cioè anche cose molto banali e quotidiane che si vedono e che però vanno a rappresentare molto spesso tanto più di tante parole. Ecco. E, ti faccio terminare e poi mettiamo questa traccia. Allora, una cosa va detta. C'è un grosso problema, parlando di appunto di status quo e accettazione di quello che è la realtà, che spesso comunque viene analizzato da un punto di vista esterno. È indubbio che siamo tutti uguali, chi ha avuto più fortuna e chi meno, proveniamo da culture diverse, ma comunque siamo sempre tutti esseri umani e questa cosa qui è imprescindibile. Tuttavia, ci sono diverse visioni di vita, filosofie di vita, modi di vivere la vita, che sarebbe stupido non unicizzare o in qualche modo caratterizzare con determinati elementi. L'integrazione, spesso questa parola è abbastanza abusata, come se fosse la cosa più facile di questo mondo. Anch'io stesso, prima, capito, di lavorare per questo mondo, dicevo, ma sì, ma non serve a niente, basta aprire i confini. Cosa sono i confini? Sono linee immaginarie che uno con una cartina geografica ha deciso di mettere, no? Integrazione vuol dire in un certo modo anche un certo tipo di educazione. Non perché chi ha una cultura diversa da te va educata per essere normalizzata all'interno della tua di cultura, ma in qualche modo ci deve essere una specie di lavoro che va fatto sia da chi accoglie e da chi arriva. Nessuno arriva violento con la voglia di distruggere la comunità occidentale o quant'altro. Ma anche è vero, ci sono alcune differenze che spesso rende inconciliabile, non inconciliabile, parolaccia, ma rende difficile l'armonia tra più culture. La visione della donna ne è forse la più emblematica. Possiamo stare qui a parlare di burka, possiamo qui a parlare di in Arabia Saudita le donne fino a qualche giorno, qualche mese fa non potevano guidare. È indubbio che però, come dei problemi più grossi che l'Europa deve affrontare a livello di società, e quindi non a livello come decisione politica, l'integrazione non è così semplice e immediata come magari chi come me, come magari come te, proviene da un ambiente in cui più progressista, più di sinistra, come vuoi chiamarlo, ma pensa di averlo. No? Ci sono delle diversità, e dei problemi che vanno affrontati. La visione della donna soprattutto. È molto naturale vedere il padre che tira degli schiaffoni abbastanza sonori al figlio qua, cosa che magari avviene meno, sta avvenendo meno di frequente nella comunità occidentale, no? La donna ancora qui non riveste una posizione che dovrebbe, non parlo a livello generale né a livello maggioritario. Ma su alcune derivazioni culturali e soprattutto di società che inducono, soprattutto quelle del Medio Oriente, a donna come elemento di serie B, questa cosa qui è un elemento su cui bisognerà lavorare tanto, tanto. Appunto, chi siamo noi comunità occidentale per educare a una visione della donna più giusta e naturale a chi invece ha una cultura diversa in cui vede la donna un elemento di serie B? No, Non possiamo certo, credo giudicare, però che in qualche poi modo. si basi un po' tutto, purtroppo e per fortuna, su un dialogo in evoluzione, nel senso che poi sai, io vengo un po' dal mondo dell'antropologia, sociologia, quindi figurati pane quotidiano, il relativismo culturale che però rischia di diventare relativismo esagerato, quindi ok, ognuno nella sua bolla va bene, cosa che non porta poi a delle soluzioni. O comunque a appunto né a un giustificare le differenze, ma neanche allo stesso tempo a esaltarle soltanto. Credo che poi l'unica soluzione sia essere lì e dialogare o aiutare al dialogo. E non c'è una soluzione a tutto questo, forse vera e propria, ecco, per Magari ci fosse una soluzione a tutte Cioè, è le solo un cose. continuo gioco di negoziazione Sì, vabbè. fondamentalmente Beh, sì. tra differenze che è difficile giudicare, però anche l'astensione totale del giudizio, appunto un relativismo estremo, è sbagliato, nel senso non è che se tu nella tua cultura tu facevi l'esempio della donna, una donna in questo modo, allora va bene, cioè parliamone, dialoghiamo, spieghiamoci il perché per me va bene, per te no, E poi alla fine è questo, c'è cioè appunto anche la parola multiculturalismo che tu prima hai fatto più volte. È una parola che è piena di insidie, nel senso, sì, sono diverse culture, ma non sono tanti compartimenti stagni che possiamo mettere uno di fianco all'altro, ma piuttosto tanti spunti da cui dobbiamo iniziare un nuovo dialogo in una situazione come quella che si sta andando a creare nel mondo oggi. Sono dei punti di partenza che vanno in qualche modo intrecciati. E come dici tu, una soluzione universale non esiste, per nessuna cosa al mondo esiste una panacea e quindi soprattutto qua, io dicevo, c'è un 75% di quelli che arrivano che sono afghani, maschi afghani single. Le donne sono una minoranza, e per non parlare poi della comunità LGBTQ, che è un altro bell'argomento abbastanza insidioso, cioè non insidioso, malvisto. Nello Certo. stesso campo, la maggior parte della comunità LGBT che viene qui e arriva, C'è una presenza comunque, quindi. c'è una presenza, c'è addirittura un paio di organizzazioni che si dedicano solo a quello. C'è una presenza proprio dal punto di Sto vista lavorando dichiarata, nel io. senso esatto, c'è Sì. Sì, un movimento. sto lavorando adesso a un nuovo progetto con questa ragazza transessuale, era M2F, adesso con cui vogliamo lavorare con questo tipo di persone. La maggior parte di loro è stata accolta dall'UNHCR all'interno della città di Mitilene, quindi vivono in alcuni appartamenti dentro la Mitilene, proprio perché dentro il campo non potrebbero stare, per motivi di sicurezza, per motivi di non armonia, e al di là della posizione della donna, che è un altro argomento molto, molto fondamentale da trattare, anche per quanto riguarda la comunità LGBT, non voglio usare il termine educazione, perché chi siamo noi per educare? Soprattutto tu mi insegni che la scuola è una istituzione abbastanza pericolosa. Ma ci deve essere un lavoro che deve essere come hai usato tu la parola prima, negoziazione. Devono esserci compromessi, perché nonostante, capito, non possiamo dire che la comunità occidentale sia al 100% pro libertà individuale, riguardo soprattutto l'identità di genere o l'identità sessuale, chi ne vuole più ne metta. Qui va fatto un lavoro ancora più serioso per cercare di trovare una soluzione, appunto, una soluzione non c'è, ma trovare dei certi tipi di compromessi per far capire che se si vuole vivere in un mondo davvero libero, bisogna accettare qualsiasi parte, che magari la tua cultura dice essere non naturale. Parliamo, diciamo così. Poi non mi introporrei troppo nell'argomento, anche perché io stesso sono molto, molto ignorante riguardo, e ho paura sempre di usare parole a sproposito e parole sbagliate. Ma mi sembrava doveroso citarlo, quantomeno soprattutto quando si parla di accettazione e status quo in una situazione che sì, c'è solidarietà, c'è comunque il sentimento siamo tutti sulla stessa barca, ma non è proprio così, non è proprio così, perché spesso prima con la posizione della donna e poi soprattutto con la comunità LGBT c'è un certo tipo di reticenza. E dopo questo preambolo torniamo dove eravamo partiti, quindi a Giannis Parios, Haris Vartakuris con Piokali Imonaxia. Έχει χρώμα η μοναξιά στο χαρτί να ζωγραφίσω να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω. να τις βάλω και πανιά. Για ταξίδι τελευταίο, λιμανάκι στο Αιγαίο, η δική μου αγκαλιά. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά, πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Να ήταν πέτρα η μοναξιά, σκαλοπάτι να τα μέλης, να χαθείς τη λησμονιά, για να μη σε δω να φεύγεις και να γίνεσαι καπνός, σαν τσιγάρο που δεν νιώνει, τώρα πια θα είσαι μόνη και θα είμαι μοναχός. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά, πιο καλή μοναξιά, ναι, από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή η μοναξιά. Canzone sì, ma da vedere, da vedere. Espressione del bambino, interessanti. E poi no, ti chiedevo prima, non mi ha risposto, se sai la traduzione. Io da mezzo greco dovrei saperne di più, però no, andremo a cercare. Guarda, quando me l'ha fatto vedere, l'avevo tradotta, ho trovato la traduzione, ma... non posso essere troppo sincero con te e dirti sì, lo so a memoria, so benissimo cosa dice. Non è assolutamente, non lo so, dovrei andare a riguardarla. Mi ricordo che comunque trattava di tipo mi riguardo la vita, tipo sono un bambino, io e te, tu sei vecchio di merda, io sono un bambino del cazzo. Siamo tutti sullo stesso livello anche allora, per quanto riguarda la vita. Potrebbe essere loneliness is better. La solitudine è il top, insomma, la cosa è meglio. Non posso che essere più d'accordo. Non è, per quanto riguarda la filosofia un po' più esistenzialista, non per quanto riguarda la felicità stessa, però vabbè, forse questo stiamo divagando un po' troppo. Pietro D'Alessio è diventato Pietro e Giacomo che parlano di cose, però... Vabbè dai, rimaniamo comunque Pietro e Giacomo, poi... Né bene né male. Poi sicuramente è un racconto da Lesbo, però sempre fatto da Pietro e Giacomo, che si chiedono che titolo è, cosa vuol dire. Anche perché comunque se dobbiamo fare una serie di episodi, ogni tanto dovremmo raccontarci anche qualcosa che esula. In ogni caso, dove eravamo rimasti, caro Pietro? Eravamo rimasti a status quo e a accettazione. Il prossimo step che mi ero segnato cui volevo parlare in realtà era collegato al fatto che comunque appunto siamo sulla stessa barca, c'è un certo tipo di uguaglianza, ci sono differenze generazionali, etniche, culturali, ma alla fine comunque torniamo a casa nello stesso posto. Abbiamo divagato un pochettino, tanto che in realtà tutto questo discorso preannunciava la prossima canzone, che in realtà è forse il tema più unico di tutti, che è quello, forse quello amoroso, diciamo, romantico. Cosa è più comune, naturale, che unisce tutti quanti, che è il sentimento d'amore? La mia tipa mi ha lasciato, amo quella tipa, uso tipa perché parlo da maschio bianco privilegiato etero. E la prossima artista, questo pazzissimo afghano che ancora non ha capito che cavolo di musica faccia, ancora non ha capito bene che tipo di artista sia, ha questo tema come big topic. Prima c'era una politica europea poi uso il termine politica europea perché sono abbastanza stanco dalla giornata e forse dovrei usare più i termini che i 4 anni di giurisprudenza mi hanno insegnato, ma che diceva che se tu coppia, si è aspettato un bambino, venivi in qualche modo considerato a livello prioritario nell'accettazione o meno nel diritto di asilo. E questa cosa ha portato a un boom di nascite dentro il campo negli ultimi 2 anni, incredibile, negli ultimi 2 anni, parlo degli ultimi 2 anni perché anche se la politica, questa direttiva, questo escamotage era in voga fino a qualche anno fa, adesso non l'è più, la gente non lo sapeva, quindi ha continuato a fare figli pensando di potersi mettere in una posizione prioritaria. L'amore nel campo c'è, tanta gente, nonostante sia arrivata qui con la moglie e i figli, ha trovato una compagna, un compagno in questi anni, in questi mesi che ha dovuto passare dentro il campo. Tralasciando tutto il fatto di prima, comunque la situazione della donna e molestie, stupri, purtroppo queste cose qui sono frequenti. C'è anche da dire che comunque vedere coppie che si sono trovate e si sono messe insieme qua non fa che sorridere. Poi io sono un guaribile romantico e quindi queste cose mi saltano sempre un po' più all'occhio. Però è bello vedere che nonostante tutto ci sia questo tipo di affetto, ci sono questi sentimenti che comunque non vengono a mancare nonostante la situazione, l'atmosfera, le circostanze siano delle peggiori. L'amore resiste. Esattamente, esattamente. Ma anche ieri l'altro ieri sono andato a cena da questo mio amico iraniano che è scappato dall'Iran perché è dichiaratamente gay, faceva il giornalista per una testata anti-regime, quindi le ultime 2 cose, sono le prime 2 cose che non puoi fare in Iran, forse, deve essere. Si è appena fidanzato qualche settimana fa. Diciamo che me l'ha detto e me l'ha descritto con una naturalezza tale che per un attimo entrambi ci siamo dimenticati che tutto ciò è nato in una situazione del genere. Sì, ok, forse non è il primo argomento di cui magari uno vorrebbe sentir parlare quando ascolta una trasmissione riguardo lesbo, però fa sorgere un po' quel dire, sai cosa, nel bene e nel male anche queste cose non smettono di succedere. Ma sì, mi sembra che Partirei. poi sia un po' un fil rouge di quello che ci stiamo dicendo fino ad adesso, quello di passare un po' dalla tragicità e l'eccezionalità della situazione a comunque un ritorno al sentirsi tutti umani, cioè l'hai detto più volte, ovvio che noi siamo in una situazione, c'è chi è in un'altra, però mi piace questa cosa del andirivieni tra siamo tutti sulla stessa barca, c'è chi poi è su un'altra barca, ma le due barche insomma sono nello stesso mare, e questo è un po' quello che mi sembra passi, e quindi l'amore. Come tanti altri sentimenti, il rapporto intergenerazionale, certo, assume delle sfaccettature sempre diverse, ma resiste in quanto sentimento umano. Resiste, perché non può smettere di essere tale. Però appunto sembra che più parliamo, più si finisce a parlare di cose che io e te abbiamo parlato anche fin troppe volte. Questo artista qua, Pishdar Ahmad, è mezzo fuori, perché il video che fa è mezzo fuori. Però racconta molto della cultura, secondo me, afghana individuale del. Gli afghani sono un attimo diversi ripeto, il 75% di chi arriva qui sull'isola afghano, quindi è un dato molto forte. La maggior parte delle persone che vedi, che incontri durante il giorno, lavorando nel campo e fuori dal campo, sono afghani. Nonostante ci siano tipo una quindicina di lingue diverse, dialetti, anche in questo artista è presente un effetto che forse è unico un po' dell'Afghanistan, no? L'Afghanistan è un paese tormentato da anni, da russi, inglesi, americani, talebani, c'è sempre stata una presenza estera molto forte, mi dà l'aria di paese commissariato, no? Come succede nei nostri comuni mafiosi. Ed è forse questo sentimento di realizzazione personale nonostante non ci sia mai un periodo di pace. E questa cosa non la vedi negli iraniani, questa cosa non la percepisci troppo negli siriani. Poi adesso stare qui a puntualizzare su singole differenze dei vari paesi è troppo, però come quando raccontiamo le nostre differenze tra noi e francesi, noi e tedeschi, in qualche modo c'è sempre un elemento che alcune volte va sullo stereotipo, ma alcune volte ha un fondo di verità. E tra tutti gli afghani che ho conosciuto, ho visto e ho lavorato, con cui ho lavorato qua, c'è questo sentimento di appartenenza a un'esistenza mai quieta, mai quieta. E dal punto di vista amoroso è vissuta, vabbè, molto simile anche agli altri paesi medio orientali, arabi, però c'è un quel, non so, quel tocco, quella sfumatura proprio identitaria da paese che ne ha vissuto di tutti i colori. Pashdar Ahmad è ormai quarantenne. Quando scrivevo questa canzone, se non sbaglio, ho fatto qualche ricerca prima, però ha un non so che di childish, ecco, faccio un cocktail di lingue ormai quando parlo qui, perché parlo da francese, Fanciullesco. inglese, fanciullesco, giusto, fanciullesco, no? E ricorda un po', soprattutto il video, se ti guardi il video, mi raccomando, guardati il video perché è molto astratto. C'è qualcosa di fanciullesco in tutto ciò, no? E quel tipo di fanciullezza è sparita negli occhi, dico qua. Ma quando ti parla, quando, capito, vedi che vabbè, io sono una persona abbastanza socievole e si prende veramente poco sul serio. Si fa la battuta, diciamo così. Sono i primi a farti il sorrisone, cosa che sugli iraniani un po' meno, magari. Sono un po' più artistici, se vogliamo, gli iraniani. Gli afghani sono un attimino un po' più, non bimbi dentro, perché è assolutamente incorretto da dire, ma c'è questo sentimento di. Ne ho viste, ne ho passati tutti i colori, e mio padre, mio nonno pure, e l'unico modo per rimanere un po' attaccato alla vita è fare una battuta in più, fare una battuta in più. Poi, vabbè, io sono l'ultimo che ha tanta esperienza per poter parlare di queste cose, perché magari sono solamente le mie impressioni e quant'altro, però è una cosa che ho notato, è quando ho trovato questo artista e questa canzone in particolare, l'ho voluta... Mi ho detto, cavolo, devo iniziare un po' a studiarmela bene, perché secondo me è una cosa... L'ho vista e ho avuto l'impressione che fosse molto comune. Va bene, allora ascoltiamola, cerchiamo anche noi questo qualcosa che hai trovato anche tu. Per chi volesse vedersi il video, Ali Azimi, Pish Daramad... مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است، یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرد میشم میرم تو گلت. ای تو طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم. من درد میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. از این روز نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم. پزونه pezzone finale, soprattutto interessante come, come ritmica, dico, cioè è proprio cambiato tutto verso la fine. E c'è il cambio, c'è il cambio che mi ha scioccato quando l'ho sentito, ho detto ma minchia, minchia che pezzone. Sì, però non si può essere sempre così, infatti. Dove ci porti, dove ci porti? C'è un lato che non abbiamo affrontato, che è quello, abbiamo affrontato l'incazzatura, certo, però dopo l'incazzatura c'è anche quel senso di cosa faccio, cosa posso fare per combattere questa situazione, no? Ok, sono incazzato, situazione di merda, fortunatamente ci sono alcune cose positive che mi fanno stare al mondo, mi fanno stare a galla, ma di concreto cosa posso fare per cambiare la mia situazione, no? E poi quando arriverà il pezzo ne parlerò un attimino un po' meglio, che è il prossimo pezzo. Una canzone greca che è di un collettivo che si chiama Odos 55, dico 55 perché in realtà non so dire 55 in greco, che è un po' più un pezzo un po' più elettronico, un po' più usato in alcuni squat, soprattutto ad Atene, da quello che ho capito. Ed è un po' l'emblema di quello che volevo affrontare adesso, che invece è proprio il cazzo posso fare per cambiare la situazione. Abbiamo detto che il problema è strettamente più politico che altro, perché una soluzione, benché sia complicata, come abbiamo parlato di integrazione, non è semplice. Però anche chi non si trova magari a dover fare una scelta di vita che è quella da dire io sento bisogno di andare a Lesbo a lavorare lì piuttosto che a lavorare in banca, che cazzo ne so, c'è qualcosa che tutti noi possiamo fare, non perché lavorare in banca sia sbagliato, o assolutamente meno qualitativamente importante, anzi, però non tutti. Naturalmente c'è chi sogna di fare il panettiere, chi vuole fare il calciatore, chi vuole lavorare nel sociale, no? Chi non lavora nel sociale, spesso mi sento dire, ah, grande che vai lì, cioè, grande cosa, cioè, tu dici grande al panettiere che fa il pane perché vuole fare il pane, no? È più un... Bisognerebbe dirlo, anche al panettiere. Anche al panettiere, salutiamo tutti i panettieri, ha fatto un lavoro della Madonna, grazie mille. Al banchiere però quello che fate. Dici di no. Al banchiere salutiamo grande anche i banchieri. Grande che fai il banchiere, ti fai carico, banchiere. Che coraggio che hai. Salutiamo tutti i miei amici ebrei banchieri. No, ma qual è la differenza, infatti? Cioè, perché c'è sicuramente tra un mestiere e l'altro, ma poi... Tra un mestiere classico e appunto tu l'hai definito grande che vai lì, cioè tra questo andare lì, qual è la differenza? Ma guarda, la differenza è molto soggettiva. Ognuno vorrebbe fare quello che gli piace fare, no? Non tutti riescono, chi per motivi di soldi, taggio sociale, chi più ne metta, ma... ognuno vorrebbe fare quello che si sente in dovere di fare o che vuole fare, che gli piace fare. Qui entra però in gioco anche appunto se la situazione non è delle migliori, soprattutto ci sono persone che stanno peggio di te, dovrebbe entrare un po' nella testa di chiunque di cercare di fare un minimo per aiutare un po' anche chi è un po' più debole, no? E questo non vuol dire che, hai capito, tu debba prendere il primo aereo e andare a Lesbo, Lampedusa o in Africa, perché non è una cosa che è doverosa e soprattutto, cioè, non è una cosa più giusta rispetto di altre. Non è comunque la soluzione, cioè, se tutti lo facessero. No. Se tutti lo facessero non ci sarebbe problema di immigrazione, no. non si sa, cioè. Io ho sempre pensato che l'unica soluzione per salvare il mondo è forse il teletrasporto. Se tutti fossero in grado di teletrasportarsi, Ahmed, bam. Delirio, anarchia completa, come piaceva a te in epoca scuola liceale. No, qua è quasi, non è anarchia, diventa proprio globalismo liberista totale. Però ne abbiamo parlato spesso quando stavamo cercando di creare Exalge, no? Nel senso, tu avevi la tua esperienza a Formentera, cioè, Gio che ha fatto l'eremita, chi tra di noi che comunque cercava soluzioni alternative alla vivere quotidiano, al vivere metropolitano, metropolitano con altro tipo di frequentazioni, parlo di Macao che, o di, per quanto riguarda Viola, ma anche noi. Cerchiamo sempre di trovare quella nostra dimensione all'interno di un mondo che magari non ci piace troppo, no? E cerchiamo sempre di fare quello che vogliamo fare, quello che ci piace, quello che pensiamo sia giusto. Alcune volte, quando tu devi cercare di fare la cosa giusta, un passo indietro devi farlo. Anche essere vegano, vegetariano, è un passo indietro che magari un passo indietro che in realtà non senti tanto, perché è una cosa che vuoi fare, che ti piace fare. Però in qualche modo, quando lo fai, senti che è la cosa un po' più giusta, no? Sì, è quella rinuncia che poi non è né un, cioè, è sia un passo indietro che un passo avanti, perché se lo vuoi fare è anche un passo avanti, però è quella rinuncia a qualcosa sicuramente. E penso che non dico, cioè, tutti guardano le pubblicità pregresso col bambino malato, aiuta il povero Mahmood a avere un passo al giorno, e allora dici, ah cavolo, magari il 8 per 1000 quest'anno lo dedico al piccolo Mahmood. Ma una cosa che è invece doverosa e credo sia essenziale per l'uomo, in qualsiasi circostanza si ritrovi, è quella di in qualche modo di aiutare la propria sfera di conoscenze, che non parlo del capito aiuto i miei amici basta, ma nel bene e nel male, nella vita quotidiana ti trovi a contatto con persone diverse. E se riesci a individuare il momento giusto o anche la cosa giusta che puoi fare per alleviare o magari il dolore di un amico o le monetine che dai al barbone per strada, insomma, sono cose semplici, ma che in qualche modo la maggior parte delle persone magari si sente bene, no, a fare, ma che nella presa nella totalità della cosa, se tutti lo facessero, se tutti avessero un pochettino un po' più di attenzione nel cercare di aiutare chi magari non ha la tua fortuna, non dico il mondo sarebbe migliore, perché tu ben sai che la penso che il mondo fa cagare, l'essere umano fa cagare, quindi benché si possa essere solidali con chiunque, le cose non cambiano, rende un po' tutto un po' più con un senso. E quindi ai nostri amici banchieri, ai nostri amici panettieri, che magari non possono venire su Lesbo, non possono magari aiutare perché non vogliono, non è assolutamente doveroso, chi invece sta di merda, un piccolo pensiero rivolto a chi si conosce nel proprio quotidiano, che magari ha bisogno di una mano e magari tu hai voglia solo di stravaccarti sul divano, giocare alla PlayStation, fumarti mille cannoni, se puoi fare qualcosa falla. Vuol dire una rinuncia, come dicevi tu, ma allo stesso tempo è qualcosa che dovrebbe essere un po' più doverosa nell'essere umano stesso, a livello di natura. E questo che puoi fare, no? Cosa possiamo fare? Lottare. Spesso qui, ci sono molte, qui sull'isola un sacco di organizzazioni, no, la bruttissima parola, però gruppi antifascisti che lottano a livello politico contro gli stessi, alcune volte, fascisti locali. Ricordiamo adesso, dopo novembre, che è stata dichiarata come organizzazione criminale Alba Dorata, la situazione qui è tranquilla, ma per mesi e mesi, qui c'era una tensione sociale molto, molto elevata, molto elevata. Il sindaco di Mitilene, è naturalmente, visto che ha eletto quei voti degli abitanti locali, è un po' più destorso. Ma questo essere destrosso, questo essere, questo problema che c'era e che c'è tuttora, ma meno parte, di fascisti locali, è un problema che non può essere bollato, come magari spesso succede, magari in questi gruppi antifascisti che sono sull'isola, come semplici e puri fascisti. Ricordiamo, Lesbo è un'isola, e la vita da isolano ti porta a estraniarti un po' dal continente, chiamiamolo così, no? A considerare un po' di più il tuo giardino, la tua isola, a me non interessa i problemi che ci sono ad Atene, a me basta poter lavorare qua, fumarmi la mia sigaretta, bere il mio uso, non voglio che il governo entri troppo nei miei affari, no? In più, se aggiungi questo, aggiungi una bolla che si è creata con la crisi umanitaria di ricche organizzazioni umanitarie che vengono qua a usare soldi, i fondi internazionali, di privati o europei, per cercare di far bene ai profughi, quando magari la stessa società civile dell'isola sta morendo per colpa di questa crisi migratoria, inizia a capire un pochettino, un po' di più il punto di vista del locale. Dico sempre che qui ci sono due bolle, la bolla del fatto che sei su un'isola e la seconda, la bolla della crisi umanitaria. Quest'isola è un aeroporto, è sempre stato un aeroporto, gente che va, gente che viene, lavoratori del sociale, volontari, coordinatori, e questo andare e vieni che non è per niente turistico, nonostante comunque chi viene e lavora qua spende soldi e spende soldi a favore della comunità locale, porta un sacco di conseguenze che sarebbe sbagliato da omettere completamente nella considerazione che bisogna fare per quanto riguarda come hanno vissuto i locali la crisi migratoria. Ci sono tante organizzazioni che lavorano per i profughi, che lavorano dentro, fuori dal campo, ma è sempre stata abbastanza bollata come sono semplici fascisti locali che si stanno a protestare perché c'è il campo profughi qua. Bisogna anche spezzare una lancia a loro favore. Si è sempre trovato una certa scusa verso il fatto che siano un po' più destrorsi, proprio perché sono magari isolani, sto dicendo una cazzata, non è che tutti gli isolani sono sempre più destrorsi. L'isola del Giglio, per esempio, è sempre stata di sinistra, adesso non mi ricordo Ischia, però... Ischia non lo so. Ischia non lo sai. Però non lo so sull'isolani, ecco... Dipende. Di certo si crea molto una nicchia, una forza identitaria maggiore, perché l'isola più che qualsiasi altra realtà geografica è una realtà ben definita. E quindi se la destra, tra le sue varie caratteristiche, ha quella dell'identitarismo, l'isola può essere un vettore di questo più che altre realtà geografiche, diciamo questo, secondo me. No, sono estremamente d'accordo, anche se appunto non si può mai generalizzare. Però prima c'era un grosso problema di tensione sociale. Il nemico numero uno del locale, prima di tutto, è il governo. Poi vengono le ONG, poi vengono i profughi. Quando Mora è esplosa a settembre, e quando abbiamo fatto un sacco di distribuzioni un po' spontanee con vari furgoni, gruppi autonomi di persone, tra cui io e altri 15 ragazzi di diverse organizzazioni che hanno smesso di lavorare perché Morra è esplosa, è una situazione emergenziale, c'erano 15.000 persone per la strada, siamo messi a lavorare un po' per cercare fondi, dar da mangiare, da bere, qualsiasi tipo di necessità. Ci siamo stati più volte fermati dai locali, ci hanno lanciato pietre addosso, rotto i vetri dei nostri furgoni, un paio di volte con i trattori ci hanno impedito di entrare dentro la famosa via di Panaghiuda in cui c'erano le 15.000 persone, per non parlare poi dei poliziotti, che vabbè, i poliziotti in Grecia sono il peggio del peggio. C'è un qualcosa che non può essere ridotto a un semplice termine che spesso viene utilizzato fin troppo qua. i locali sono tutti fascisti. Ci sono un sacco di locali che estremamente sono da tutt'altra parte e anzi sono molto solidali, però c'erano questi problemi e chiunque prima di Moria, parlo dei lavoratori dell'NGO, dico NGO perché all'inglese in realtà è un'NG all'italiana, chiunque ha una storia di harassment o di intimidazioni da parte dei locali. E non ti parlo, non vorrei troppo parlare delle volontarie femminili, di sesso femminile, perché loro hanno visto anche di cotte di crude, storie da gente con motorini che seguiva sotto casa. Poi non voglio andare troppo sul crudo perché non è una conversazione così privata, però ci sono persone che ne hanno vissute di cotte di crude solamente per il fatto di essere un appartenente a un'organizzazione umanitaria ed essere qui per lavorare per i profughi. La cittadina di Moria, quando qualche anno fa si è dovuta affrontare il problema che c'era un campo da 3.000 persone che in realtà era per 20.000 persone fino a un certo punto ha dovuto confrontarsi con uno stato che non gli aiutava, una situazione che era completamente allo sbando e si sentivano completamente abbandonati, quindi è logico per loro, non da mentalità da isolano, ma da mentalità da fin qui, fino adesso andava tutto bene fino a un certo punto, e adesso una situazione emergenziale a tal punto che lo Stato non interviene neanche nel modo migliore dei modi. È logico che ce l'hai inizi ad essere avercela con gli NGO. È anche normale che ti sta sul cazzo un po' il profugo. Il mondo delle ONG, delle organizzazioni umanitarie, non è diverso, non è più eticamente giusto. C'è una serie di giochi politici, di interessi economici, di giochi di poteri che sono veramente, veramente... della stessa misura che potrebbero essere nelle altre situazioni sociali e economiche. C'è uno spreco di denaro incredibile, sono fondi e fondi che arrivano e vengono usati in malo modo, una governance politica che non li incanala neanche in modo giusto. Secondo me anche su questa parte qui... Poi possiamo dedicarci quasi un episodio, nel senso è un mondo. È un mondo, certo. Però era per introdurre la nuova canzone. Era per introdurre questa canzone. Questa canzone qui, da quanto dicono alcuni miei amici greci qua, è una canzone che si ascoltava spesso negli squat di questo gruppo che spesso frequentava i centri sociali ateniesi. È una canzone abbastanza un po' più elettronica, un po' più cazzuta e un po' più antipolitica, no? E mi sembrava doveroso anche spezzare una lancia a favore di queste tensioni sociali e politiche che ci sono state e che adesso sono un po' più attenuate dopo la condanna Alba Dorata e un po' più attenuate dal fatto che comunque Moria non è più in piedi, è il campo, benché sia peggiore, benché comunque sia pieno di persone, è un po' più chiuso e quindi le persone vedono meno e vivono meno la crisi migratoria come fino a qualche mese fa. Non che sia migliore, non che sia un improvement, ma adesso le tensioni sociali sono più affievolite. Ma era giusto raccontarne un pezzo, poi come dici tu, magari una puntata solo su questo potremmo farlo. Ma sì, anche perché però... mi sembra che di cose ci siano e dobbiamo anche tenercele, non so, dedicarci delle cose, dei momenti per ognuno di questi argomenti, però come dicevo prima ci sta a fare un attimo un quadro generale, come stiamo facendo in quest'oretta e mezza, due. Ci siamo spinti così là, cavolo, non avevo neanche... Cosa siamo? 110 minuti. Ma che noia, io non mi ascolterei a parlare così tanto. Dovrei fare, no, dai, un bel po' di cose interessanti, un sacco di bella musica, bella poi, più che bella, contestualizzata, oltre che bella. E quindi dai, lanciacelo tu questo brano. Allora, Odos 55, Attichi Vittoria, la vittoria dell'Attica, presa in giro naturalmente al governo greco, un rock elettronico, poi adesso non sono contro generi musicali come definizione, ma possiamo dire che è proprio una scottata, mi piace chiamarla così. Andiamo, una roccata scottata. Non andiamo con la scottata. Ho trovato una versione in realtà leggermente diversa da quella che proponevi tu, cioè nel senso forse è anche la stessa, semplicemente su YouTube mi ha mandato su un'altra e adesso poi mi dici se è lei o meno. Vediamo se ci siamo. Thank you. Nascottata. Rieccoci. Cosa? Nascottata. Nascottata. Sì, sì, sì. Beh, mi sembrava anche giusto e doveroso. No? Ha messo 4 canzoni greche e 4 canzoni non greche, proprio per mantenere un certo di par condicio. Anche la prossima, per esempio, è una canzone greca, sempre figlia della mia cultura un po' più hip-hopesca. E forse l'ho un po' anticipata, perché ho parlato prima dei locali greci, dei locals, e forse una verba un po' più controversa, no? Controversa. Mentre adesso volevo invece parlare dal punto di vista un po' più positivo. Ci sono tante organizzazioni qua, poi dobbiamo dire che comunque ci sono differenze di politica, perché se decidi di lavorare dentro il campo fai una decisione politica, che è quella di accettare un po' i termini del governo, dell'esercito, quindi per alcune grandi organizzazioni o piccole organizzazioni questa cosa va bene, ad altre grandi o piccole organizzazioni questa cosa non va bene. Se lavori dentro il campo, accetti i termini del governo e quindi favorisci lo status quo, perché fai una cosa che in realtà dovrebbe fare il governo. E invece, stando fuori, c'è chi dice, la penso così, però c'è chi dice che stando fuori, invece aiuti, fai del bene, fai quello che devi fare, ma non dai una scusa al governo per continuare a non fargli fare quello che dovrebbe fare. Le organizzazioni che lavorano dentro il campo, a parte quella, vabbè, cristiana, pacco di soldi, un sacco di controversie, di storie, di rumors, vai a drizzare i capelli, ci sono anche quelle un po' più capitalistiche, se vogliamo, no? Quelle con i big money, quelle sponsorizzate addirittura dalla Nike, per esempio, no? E anche alcune piccole organizzazioni. Ci sono queste due organizzazioni che volevo menzionare, magari proprio adesso, al volo, proprio prima di chiudere con l'ultimo argomento, vai, che è Stand By Me Lesbos. A parte il nome, vabbè, i nomi dell'NGO sono veramente, veramente da mettersi le mani nei capelli. Stand By Me Lesbos è un'organizzazione greca, fondata da questo abitante dell'isola di Lesbo, Michalis, tale Michalis, che ha deciso fin da subito di aiutare questa povera gente stando fuori dal campo, facendo questa scelta, dicendo appunto io non voglio entrare dentro il campo perché non condivido i termini che il governo mette come paletti, ma allo stesso tempo voglio aiutare. Abbiamo parlato prima dei locals che hanno fatto di tutto per evitare, combattere il sistema delle NGO, i volontari e quant'altro. Stand By Me Lesbos, per esempio, è stato l'opposto. Continua e sta continuando a creare micro progetti fuori che sono sempre più interessanti e nonostante sia fuori dal campo, finanzia e supporta due gruppi di persone che sono autoproclamatisi, diciamo, i Moria White Helmets, no? Ricordiamo, White Helmets sono questa associazione, appunto, che in realtà non è un'associazione, ma un gruppo di persone che lavorava a Damasco e ad Aleppo quando c'era la guerra siriana, che ci sono ancora lì, che sono gruppi di persone ad Aleppo siriani, ma qui prevalentemente afghani, che lavorano e sono, diciamo, indipendentemente, sono autonomamente resi disponibili per fare un sacco di lavori, di cose utili per la vita dei profughi dentro il campo. E Stand By Me Lesbos li ha sempre supportati con soldi, donazioni e quant'altro, nonostante continuasse il suo lavoro di attività di organizzazione umanitaria al di fuori di esso. E poi ci sono un sacco di privati che, nonostante sia un po' in controtendenza rispetto agli altri isolani, sono in prima linea tutti i giorni, tutte le mattine, per cercare di fare qualcosa, di trovare fondi, organizzare, fare. Ieri abbiamo avuto un meeting con la mia organizzazione e un'altra per cercare di portare più elettricità. L'elettricità dentro il campo è inesistente, l'hanno solamente 2 ore durante il giorno, e quelle 2 ore lì, essendo in sovraccarico, spesso è anche quasi inutile, non quasi, cioè, ma è postale il fatto che comunque abbiano 2 ore di elettricità, ma gli venga richiesto di usare comunque internet quasi tutti i giorni per applicazioni, registrazioni legali per far procedere il loro iter burocratico per richiedere, avere uno status di richiedente d'asilo. Ho citato il sistema di Lesbos, ma in realtà è pieno di greci privati o piccole organizzazioni che fanno del bene e cercano di fare. Quindi è vero, abbiamo parlato di locals che lanciano sassi, che addirittura a febbraio, non l'ho citato, ma avremo modo di parlarne più avanti, magari un'altra puntata, hanno bruciato un intero centro comunitario. Ci sono un sacco di locals incazzati, neri, ma ci sono un sacco invece di gente che è in prima linea insieme a tutti gli altri lavoratori dell'NGO per cercare di lavorare bene per il campo. Questa canzone è una canzone che non c'entra niente, in realtà. È sempre, appunto, fa parte della mia cultura ipopesca, e parla di Atene. Atene per un profugo rappresenta il passo subito dopo essere lasciato qua a marcire, però marcire è una brutta parola, è infelice, qui sull'isola di Lesbo. Atene è il passo intermedio tra ok, sono arrivato, sono qua a vivere dentro il campo, passano mesi, se non sono stato rigettato dal governo, rejected, esatto, faccio un cocktail di lingue ormai, è il passo intermedio prima di poter andare definitivamente in un altro paese, se sono accettato, ricollocato o ne ho i requisiti, o per essere considerato richiedente asilo che può stare in Grecia. Spesso la gente viene rigettata, quando non viene fatta viene mandata ad Atene, e lì inizia un altro periodo lungo di mesi in cui l'immigrato in hotel, succede anche ad Atene, no? Però è abbastanza palese la loro felicità quando ricevono la notizia che sono stati accettati e andranno ad Atene per un certo tipo di periodo, no? E quindi dopo aver parlato del fatto che i greci sono brutti, cattivi e fascisti, mi sembrava doveroso anche parlare dei buoni greci e cosa significa anche per un profugo decidere di rimanere in Grecia, perché vabbè, le direttive europee sono queste, ricordiamo, se tu arrivi in un paese europeo non puoi andare in un altro paese europeo, ma anche lì non è così chiaro e bianco e nero. Atene rappresenta un passaggio intermedio, e nonostante noi siamo alla fine della nostra puntata, volevo dedicargli un attimino questa canzone, un po' poppesca, Stina Atena. Dai, sentiamocela. E tanti spunti comunque, adesso non abbiamo tempo, ma mi verrebbero un sacco di cose che però porteremo e porterò come domande nelle prossime puntate, e intanto adesso andiamo con la penultima traccia di questa puntata. Τα σπιτουδάκια στην Ομόνια να βαράν στα σκαλιά. Τα δεις ανάπηρους ζητιάνους να ζητάνε λεφτά. Τα χαθείς στα στενά. Αν δεν την ξέρει καλά, θα δει Ακρόπολη. Μπορεί να μην την είδε ξανά. Θα πάντα δω του παπατζίδε, μάρεψε τον παπά. Και ρίχνει χέρι, τα λαβέ, πρέζα και τα λεφτά. Πουλάνε τα φθηνά τσιγάρα, ενώσει στην Αθηνά. Παίζουν χιλιάδε, πα στην τάδικα. Αν θέλει να πα από μπάτσου μέχρι γιάπητε, ραπάδε με τα λάδε. Μπορεί να δει τον τάκι, είπαν και απαράζουν πρωί το βράδυ στο μοναστηράκι. Πρόσεχε το πορτοφόλι σου λιγάκι παραπάνω όταν βρεθεί. Συμβαίνουν στην Αθήνα φάσει που δεν έχει φανταστεί. Μπορεί να βρει και πρέζα λίγο άμα ψαχτεί. Υπνώσε τον ψυχοφάρμακα αυτό να φτιαχτεί. Διαφορού αλλοδαπού, παράνομου ή διάσημου. Αν τύχει να του δει, μην του μιλήσει. Άσε του μικρά παιδιά να πουλάνε χαρτομάτιλα. Στα φανάρια βλένουν τζάμια με ροκάματα. Κάνουνε τα στραβά τα μάτια, όλοι κοιτάν κατάματα. Στην Αθήνα. Μια μέρα τον ηλεκτρικό θα δεις γραφείο, υπογραφές και έλεγκτες. Περίεργους ανθρώπους με παράξενες μορφές. Φασαρίες και φορείες, διαδηλώσεις, ιστορίες. Πολιτικούς σε ομιλίες, μα και όμορφες κυρίες. Μετά από τον αγώνα, χαλαρά όλοι στην Ομόνια. Κρύπησαν το παιχνίδι, γι' αυτό τα σπάνε όλα. Πίσω αγαπάδες να έχουν πάρει φορά πυλές. Για αυτή να έχει αρκετά καλά μαγαζιά. Για φούντερ με κουκούλα ή μπαντελόνια φαρδιά. Θα δεις τρελούς μέσα στον δρόμο να σκορπάνε τον δρόμο. Οι δέκα μπάτσους να βαράνε ένα άτομο μόνο. Αν σε συλλάβουν θα στυπέσουν ακριβώς σαν ταινία. Με χειροπέδες και πιστόλια εδώ δεν κάνουν αστεία. Όταν μιλάω για την Αθήνα μιλάω για τη μισή Ελλάδα. Και χάρηκα που πήραμε και την Ολυμπιάδα. Η Αθήνα πάντα θα είναι μια πόλη, μια ιστορία. Δημοκρατία και μνημεία από μια κοινωνία που τώρα ζει στο άγχος. Ως πλήτη ανεργία, έγκλημα ναρκωτικά. Είναι μια άλλη ιστορία στην Αθήνα. Δεν έχω φίλους μόνο γνωστού. Στην Αθήνα. Μια πόλη 5 εκατομμύρια. Στην Αθήνα. Δεν έχω φίλους μόνο γνωστού. Η Αθήνα, τη νύχτα είναι όλο όμορφιέ. Αμέτρητα κλαμπ με μουσική του πρόδειγμα. Έχει ό,τι θε, φίλε, αν δεν πει να είναι κρίμα. Παίζουν γυναίκε που για χρήμα σου προσφέρουν ειδονή. Στην Αθήνα, δεν έχω φίλου μόνο γνωστού. Στην Αθήνα έχω τόσου γνωστού. Όσο και χρού, σίγουρα αποφεύγουμε μερικού. Του κακού, του καλού, του κρατάμε στην καβάτζα κολλητού. Απειρά κονέ, όλη η αλήθεια. Σε ένα από τα εκατό στενά εξελίσσεται ληστεία. Στην Αθήνα συχνά συμβαίνουν πράγματα αστεία. Μπορώ να πω είναι αυτό που μας κρατά σε ρυθμό. Και όλοι βιάζονται εδώ να βρουν χρόνο κενό. Σκέψουν ένα λεπτό το ζήτημα αυτό που είναι τόσο λεπτό. Κοίτα μου στάρω την Αθήνα. Μα καμιά φορά μου ήρθε να σηκωθώ και να φύγω από εδώ. Δεν έχω φίλους μόνο γνωστού. Μια πόλη 5 εκατομμύρια. Δεν έχω φίλους μόνο γνωστού. Μια πόλη 5 εκατομμύρια. La Spiti, la città. Bella città, non ci sono mai, ci sono stato solo una volta tanto tempo fa. No, poi ci sta, visto che siamo in chiusura, adesso poi dirò anche qualche info più nella specifica, poi ti lascio ancora dire due o tre cose, però visto che ne stiamo parlando io e te, con il microfono spento. Tutte queste cose adesso le beccate live il giovedì, quindi in questo momento la state vedendo live. Non c'è ancora l'archivio, versione beta di Radio Exalge, però poi troverete, appena ci sarà l'archivio, nei prossimi settimane, mesi, tutte le registrazioni, quindi tutti gli episodi di Dega From Lesbo, così come per tutte le altre trasmissioni. E niente, quindi ridò un attimo la parola a Dega e gli faccio fare, diciamo, un po' la parte finale di questo tour iniziale, e poi riprendo un attimo per chiudere. Ma il Dega è molto stanco. E chi non lo è. Ma volevo chiudere brevemente con un semplice concetto banale ma ovvio. Abbiamo parlato di un sacco di cose oggi, ho affrontato un sacco di temi, angoscia, tristezza, come fare, come combattere, lati positivi, lati negativi. Una cosa è imprescindibile e secondo me era perfetta per la chiusura. Questo multiculturalismo, questo vivere una doppia bolla, questa isola aeroporto, questo gente che va, questa gente che viene, ti fa conoscere un sacco di persone diverse, con sì, magari un certo tipo di sensibilità diverso per quanto riguarda il lavoro di NGO, ma questo non è assolutamente vero, perché ci sono anche un sacco di persone di merda che lavorano per l'NGO, ma trovi anche un sacco di cose che non troveresti, ma vai, sì, magari nelle grandi città, vedi Londra, vedi New York, è un melting pot incredibile, però trovi, non lo so, questo carattere molto da un luogo in cui ci si scambia il proprio passato, il proprio presente, ci si trovano diversi caratteri interessanti della realtà stessa, del mondo, no? E quest'ultimo pezzo è un pezzo felice, un pezzo che ti fa sorridere, ma che allo stesso tempo ha dentro di sé una cosa particolarissima che accomuna un po' tutti noi, no? Questo essere unico, questo essere vario, che è un po' la realtà che attraversiamo. L'artista in questione si chiama Mire Makeba, me l'ha fatta conoscere questo mio collega che lavora con me in questo centro comunitario in cui è presente la mia organizzazione e altre organizzazioni. Purtroppo adesso non mi ricordo esattamente qual è il paese di provenienza, no? Però ha una lingua tutta sua che comunica con un suono gutturale stranissimo, adesso magari gutturale non è gutturale, ma è tipo un verso del cavallo, dello zoccolo di cavallo, ed è proprio un vero e proprio dialetto. Ho scoperto che se non sbaglio è proprio della Guinea, della la Guinea africana, in cui comunicano con questo dialetto fatto tutto di suoni tipo. Allora, in questo pezzo non è così evidente, lo capisci se dai un'orecchiata un po' più attenta, però capisci che a un certo punto ogni tanto con le parole viene fuori questo suono, e non è un suono fatto apposta, sono vere e proprie parole che vengono pronunciate in tal modo. E questo per dire che, vabbè, al di là del pezzo, che è un pezzo, l'ho detto, un pezzo felice, si presenta a non voglio pensare a niente, mi trovo bene qua dove sono, ho una vita felice, rappresenta un po' anche tutto quello che la gente si porta dietro qua, no? Si porta dietro il proprio passato, la propria cultura, ma anche un certo tipo di orgoglio che non va sottinteso, non va preso per ovvio e scontato. Tra le tante cose che abbiamo parlato, questa cosa forse non l'abbiamo affrontata bene, no? La felicità dell'essere vario, di un mondo vario, che anche forse deve essere alla base per la convivenza, il rispetto degli altri e per anche la solidarietà, visto che comunque parliamo di mondo di NGO e parliamo di campi. È un tema interessante che secondo me vale la pena approfondire anche perché c'è tutta una tematica con cui vorrei un po' dialogare con te nei prossimi episodi, che è questi luoghi di conflitto, di cosiddetta frontiera, di tante cose, sono forse luoghi da cui dovrà ripartire l'umanità, volente o nolente. E quindi che ci si annidi anche un certo orgoglio, una certa felicità, un qualche cosa, insomma, non mi sorprende e lo tireremo fuori sicuramente quando ti porterò qualche domanda sul come e il se proprio da questi luoghi si possa creare un nuovo modo di dialogare, appunto, di affrontare la diversità, di affrontare le problematiche. Perché secondo me è un discorso anche questo interessante, no? Beh sì, ed è la perfetta chiusura, la chiusura positiva, il finale lieto fine, è quello che piace di più, no? E secondo me qui ci stava per dire comunque, nonostante tutto, ricordiamoci che c'è sempre un lato positivo e c'è sempre un lato felice, non positivo, ma felice, che va sottolineato e che soprattutto in un centro comunitario dove anche lavoro io, è all'ordine del giorno, è all'ordine del giorno perché l'ultima cosa che vuoi da un centro comunitario è che il sentimento di angoscia prenda il sopravvento. E invece il sorriso, che per quanto sia una banalità, è una cosa fondamentale, fondamentale, sia per riacquisire un certo tipo di normalità che magari perdi vivendo in un certo posto, ma riacquisisci conoscendo, scoprendo, imparando cose che non pensavi di scoprire, conoscere o imparare. E questo pezzo me lo ricordava, me lo penso. Quindi mi raccomando, state attenti al suono di cavallo, perché non sono suoni fatti a caso, ma sono vere e proprie parole in questo dialetto della Guinea. Ma non credete alle parole che dico, non tutte almeno, non mi ricordo se è proprio della Guinea. Un paio di scorrettezze e di imprecisazioni le ho fatte, chiedo perdono umilmente a Chiediamo chiunque ci veemia chiediamo bene. agli ascoltatori. E quindi chiuderemo con questo pezzo. Ci vediamo, sentiamo il giovedì prossimo e andremo sicuramente ad approfondire tante cose che abbiamo detto oggi, ne aggiungeremo di nuove. C'è tanto da sviscerare, mi sembra che ci siano tantissime cose sul banco. Quindi chiudiamo con felicità, anche se tornerà anche l'angoscia nei prossimi episodi, non vi preoccupate. Ciao Pietro, ciao a tutti. Ciao Giacomo. Thank you.